cercando un italiano più corretto. Vedo i mostri del mio passato tornare al presente. Dopo che mi hanno preso tutto cercano tra il niente ancora, tra le misere macerie del mio stato, qualcosa che non hanno visto e deturpato. Cercano insistentemente pur di farmi stare sempre peggio, impedendomi di dimenticare tutti quanti gli strazi che mi hanno fatto, anche se ho più vite proprio come un gatto. Di tutte queste vite almeno 5 le ho già usate, tra amici, amore, problemi e cazzate. La gente mi cerca soltanto se ha bisogno, e se poi li cerco io mi mandano a fan bagno. È passato troppo tempo e ancora non riesco a capire che cosa devo fare se io voglio guarire da queste cicatrici che dal mio corpo vanno e vengono. Alcune sono profonde mentre altre mentono, alcune compaiono senza nemmeno fare male e scompaiono senza che le possa guardare. Invece altre non le posso sopportare perché ci è voluto troppo a dimenticare. Fanno ancora male, le porterò nella tomba, sopporterò il dolore che lacera come una bomba. L'unica cosa a cui sono abituato sono le delusioni, e me le porto appresso come un calcio nei coglioni. Ma d'altronde il mio cuore è un usa e getta, e come un contenitore si riempie e si svuota in fretta. A provare qualcosa non mi devo abituare, perché ben presto sarò nuovamente a cambiare. Ma d'altronde il mio cuore è soltanto un usa e getta, sembra di un rasoio la sua piccola lametta. Un fazzoletto sporco su cui il naso ha soffiato, uno zerbino su cui i piedi ti sei pulito. Ma tanto va così, anche se sono sfruttato, sottomesso al volere di chi mi ha sempre cercato, di chi ha giocato con le mie di emozioni, di chi trova gusto a guastarmi sempre i colori. Per questa gente gli altri sono strumenti che sfornano soltanto favori e buoni complimenti. Oh, e di questi ne ho conosciuti troppi. Ha saltato il mio corpo come fa una truppa, mi ha lasciato a terra dopo avermi usato, e non ha mai ringraziato per quello che ho dato. Ma il grazie è relativo se vedo come mi sento. A ripensarci ora quasi quasi mi pento dei favori mantenuti, della bontà tutti data. La bontà è la merce più rara, io l'ho smerciata ad un prezzo troppo basso, ennesimo errore di un ragazzo usato da gente che non ha più un cuore. Ma d'altronde il mio cuore è soltanto un usa e getta, e come un contenitore si riempie e si svuota in fretta. A provare qualcosa non mi devo abituare, perché ben presto dovrò nuovamente cambiare. Ma d'altronde il mio cuore è soltanto un usa e getta, sembra di un rasoio la sua piccola lametta. Un fazzoletto sporco su cui il naso hai soffiato, uno zerbino su cui i piedi hai pulito.